Discorsi sull'umanità ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie avvolte in bevestiti, figli senza valori ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte gridando rivoluzione ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata cisterna. Convinti ormai che il mondo non ci avrebbe mai cambiati, ci sentivamo pronti ma non lo siamo mai stati. Ma qual è la verità? Perché si scrive schiavitù ma si legge libertà. Scambio segni di pace al ballo degli emarginati, ma è difficile abbracciarsi quando hai polsi legati. Ma qual è la verità? Perché si scrive schiavitù ma si legge libertà. Non cercare propaganda nei messaggi insoliti, non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te, sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti. Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché è lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. E prendere frasi fatte e ficcarcele dentro un testo è il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso. Convinti ormai che il mondo non ci avrebbe mai cambiati, ci sentivamo pronti ma non lo siamo mai stati. Ma qual è la verità? Perché si scrive schiavitù ma si legge libertà. Scambio segni di pace al ballo degli emarginati, ma è difficile abbracciarsi quando hai polsi legati. Ma qual è la verità? Che si scrive schiavitù ma si legge libertà. Mangiare un piatto di polvere condito col sudore, ma basta un po' di successo e ne dimentichi il sapore. Mio padre aveva ragione, Guccini aveva ragione a far canzoni, non si fanno le rivoluzioni. Che si scrive schiavitù ma si legge libertà. Scambio segni di pace al ballo.